Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo oggi sia della vicenda Fiat, non tanto per anche per l'intervista di oggi di Sergio Marchione sulla Repubblica. Ha detto Marchione: non voglio andare via dall'Italia, non è vero, attaccate pure me ma lasciate stare la Fiat, non sono l'uomo nero, serve un impegno comunque anche dell'Italia. E quando spiego agli americani il successo di Detroit e il disastro di Torino, loro fanno due conti, mi dicono cosa farebbero: chiusura dei due stabilimenti per togliere sovracapacità del sistema europeo. Se mi comporto diversamente ci sarà una ragione. Intanto però scende la produzione dello stabilimento di Pomigliano, dove si costruisce la nuova Panda. La fabbrica avrebbe dovuto sfornare 200.000 vetture all'anno, per ora non si va oltre le 75.000 e comunque da qui a dicembre si arriverà al massimo a 120.000. Ancora attenzione, il problema di Fiat a mio avviso sta molto nei modelli, oltre che nell'assenza di una chiarezza. Cioè Marchione può fare quello che vuole, nel senso che la Fiat è un gruppo privato, deve però dire, visto che due anni fa in pompa magna ha annunciato il progetto Fabbrica Italia, legandolo però anche a un nuovo tipo di contratto a Pomigliano, ma non solo, deve anche dire adesso qual è la situazione. Tutto qua. Tra l'altro, senza essere così, diciamo, interventisti come i francesi, che invece obbligano la Renault a chiudere all'estero per mantenere l'occupazione in Francia, o dicono a Peugeot che non può fare 8.000 licenziamenti. C'è un problema però di modelli. I dati diffusi oggi a livello europeo fanno scivolare la Fiat all'ottavo posto nei produttori europei, dopo anche la BMW. Allora la domanda che faccio io, senza nessuna polemica: non è strano che durante una crisi economica come questa chi produce o dovrebbe produrre modelli più economici, di fascia più medio-bassa, le utilitarie, classicamente, scivoli dietro anche la BMW? È vero che c'è un problema nel mercato italiano, mi sembra di poter dire, ma ne parleremo nella seconda ora del programma, che ci sia anche però un problema di modelli. La Panda e la 500 vanno benissimo, ma forse manca la fascia della Punto ancora e anche qualcos'altro. Forse anche qualche macchina ibrida, come chiedono alcuni ascoltatori, visto il successo che sta avendo la Toyota e la Lexus nel settore delle ibride. Cioè, non è che manchino le utilitarie in Italia circolanti. Detto questo, ce ne occuperemo nella seconda ora. Tra l'altro oggi la Fiat ha annunciato di aver iniziato i lavori per costruire una nuova fabbrica in Brasile, 250.000 vetture l'anno, che va a affiancarsi alla più grande fabbrica Fiat nel mondo, che è quella di Betim, varata nel 76, e sta sorgendo in quello che diventerà il polo automobilistico nel Pernambuco, nel nord-est del paese, e avrà 4.500 dipendenti. I lavori andranno ultimati nel 2014, quindi la Fiat in realtà punta, o potrebbe chiudere un paio di fabbriche in Italia, ma ne apre una in Brasile. Ripeto, non c'è nessun giudizio di valore, però attenzione, non si può neanche dire cambia idea ogni sei mesi, facci sapere quello che è un investimento ragionevole nel corso del tempo, anche perché un piano industriale non è che si improvvisi in due giorni. Partiremo invece parlando da un lato della infuocata assemblea della Regione Lazio ieri. La governatrice Polverini ha promesso 20 milioni di euro di tagli, siamo molto contenti di questo, però ci chiediamo se è possibile tagliare 20 milioni così. Facendo un calcolo sulle regioni italiane, vuol dire che evidentemente si può risparmiare anche nelle altre regioni, non è che tutti i consigli costino nello stesso modo, però poi vi daremo il dato complessivo. Il Lazio è quello che costa di più con la Sicilia, 102 milioni l'anno il consiglio regionale del Lazio e 175 milioni l'anno quello della Sicilia, 175 milioni, ma costa tanto anche quello della Sardegna, 85 milioni. Costa tanto la Calabria, 77 milioni, viste anche le dimensioni, la Campania 90 milioni, non si capisce perché il Consiglio regionale campano costi 90 milioni e quello dell'Emilia Romagna 38, boh. Costa tanto anche praticamente il Consiglio regionale del Piemonte, 81 milioni, la Lombardia 75 milioni è al rapporto pro capite come spesa per abitante più basso. La Valle d'Aosta è quello che ce l'ha più alto. Ma dicevamo, se si possono tagliare 20 milioni, ben vengono. Immaginiamo di poter tagliare una cifra analoga negli altri consigli regionali, più o meno si arriva a un risparmio superiore al centinaio di milioni. E perché lo dico? Perché nel frattempo oggi ospiteremo anche chi rappresenta i genitori con un bambino disabile da un lato e gli insegnanti di sostegno dall'altro. C'è una lettera molto bella di un ragazzo disabile sul Corriere della Sera di oggi. Ci sono stati tagli fortissimi a livello regionale e comunale agli insegnanti di sostegno anche in Lombardia. Allora io mi chiedo se un paese civile può mantenere queste spese nei consigli regionali, per cui poi la Polverini può annunciare tranquillamente che si può tagliare 20 milioni di euro e non cambia nulla. E pensate, per inciso, che la Regione Veneto ha nel Consiglio regionale in giunta 307 auto blu, più altre 5 per il Consiglio regionale. Chiudo la parentesi. E poi invece giustamente mancano i soldi per gli insegnanti di sostegno e per le famiglie che hanno un figlio o più figli disabili a scuola. È populismo? Non me ne frega nulla. Io vorrei un paese in cui Fiorito girasse con i mezzi suoi, qualunque esso sia, e non con due auto, e in cui magari quei soldi venissero trovati per qualche insegnante di sostegno in più. Mi rendo conto che è populista come atteggiamento, ma che ci volete fare? 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Ancora sui mercati, oggi sono pesanti, e ne parleremo, i cali, devo dire, soprattutto a Milano, c'è un calo del 2,35% a Piazza Affari in questo momento, vanno male, parecchio male le banche oggi a Milano, meno 5,30% Intesa San Paolo, meno 4,40% Unicredito, meno 4,40% Generali, meno 4,30 al Banco Popolare, meno 3,60 alla Popolare di Milano, meno 3,30 UbiBanca. Bene invece, scusatemi, male anche Fiat, meno 4,40%, e Mediaset, meno 3,20%. Mediaset ha appena annunciato, tramite la dichiarazione fatta da Bernabé, si è saputo che Mediaset non correrà più per acquisire la 7, cioè invece l'offerta di Sky. Ma andiamo avanti, Estima Microelectronics molto debole, meno 4,1%. Monte dei Paschi meno 2,70 come la Popolare Emilia Romagna, e A2A Enel meno 2,20 come Finmeccanica. Guadagna solo Salvatore Ferragamo più 1,30 e Campari più 1,30 anch'esso, Atlantia più 0,30, Parmalat più 0,12%. Molto bene T-Media dopo le indiscrezioni sulla vendita della 7, oggi il titolo guadagna il 17%, di nuovo fortissima RCS. Si è saputo che la quota di La Valle dovrebbe essere intorno al 9%, è il 22% rialzo del gruppo Rizzoli Corriere della Sera. Ebbene anche Elica più 2,90%. Dicevo, borse deboli, devo dire Milano è tra le peggiori perché da noi le banche pesano moltissimo, Parigi perde lo 0,90%, Francoforte lo 0,50% e Londra lo 0,40%. Oro in calo a $1,750 all'oncia, petrolio $96 il barile. Le borse vanno male nonostante oggi la Spagna abbia fatto il pieno nella richiesta di finanziamento per il suo debito. Ha collocato infatti titoli di Stato da 12-18 mesi, BOT, BTP come diremmo noi. I tassi sono calati molto. Intanto ha venduto più di quanto immaginasse, 4,6 miliardi. Ma il rendimento è sceso da agosto, che era al 3%, al 2,80%, quello a un anno, e su un anno e mezzo è calato dal 3%, dal 3,35% al 3%. Mi ricordate al numero per i vostri sms, che è 349-238-6666. Che non ho dato comunque i dati della Fiat, avete ragione, meno 17% ad agosto in Europa, dopo il meno 16% a luglio come Fiat come gruppo, Il mercato ha fatto meno 8,5 e a luglio meno 7,5, quindi la Fiat perde il doppio, più del doppio rispetto al calo che comunque c'è del mercato. È vero che Fiat vende molto in Italia, che va peggio di altri mercati. La quota Fiat scende dal 6,5% di luglio al 5,2%, praticamente cede il posto a BMW, che diventa il settimo gruppo produttore. L'Ilva di Taranto prevede investimenti per 400 milioni di euro, il piano, questo nel piano di interventi immediati redatto dall'Ilva e consegnato oggi dal presidente Bruno Ferrante in procura. Saranno coperti i parchi, l'Ilva prevede di coprire i depositi di minerali considerati tra le prime fonti di inquinamento. La società Paul Wurth è stata incaricata infatti di presentare un sistema per la copertura dei parchi minerali. Adesso arriviamo anche a raccontare questa crisi con altre voci, o meglio con quelli che la crisi non la sentono, per poi parlare invece di chi purtroppo si vede doppiamente beffato dalla vita, ma soprattutto anche dalla crisi, ossia la riduzione, a mio avviso inaccettabile in un paese che spreca così tanto nella pubblica amministrazione, vergognosa, perché non si taglia un'auto blu ma si tagliano gli insegnanti di sostegno. Non me ne frega nulla se c'è qualcuno che dice che sono populista, non me ne frega veramente nulla oggi. Vorrei raccontare questa crisi in altro modo, e quindi chi la crisi non la sente con la nostra rubrica quotidiana, 349-238-6666 per i vostri sms. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, oggi, dopo appunto le varie agenzie di Renata Polverini sul taglio di assessori, l'auto blu, i fondi dei gruppi, il pacchetto per 20 milioni di euro, volevo darvi qualche notizia su quanto costano le regioni italiane. Dicevamo prima, il costo dei consigli si va dai 102 milioni del Lazio ai 165 milioni del Lazio, della Sicilia, per regioni che invece tipo l'Emilia-Romagna obiettivamente spende 38 milioni, parlo delle dimensioni più o meno analoghe, no? La Lombardia spende 74 milioni, il Piemonte 81, la Puglia 44, ma la cosa interessante è vedere la spesa pro capite. Beh, insomma, si va dai 7 euro per abitante della Lombardia, quanto costa il consiglio regionale ai cittadini delle regioni che vi abitano, ai 124 euro della Valle d'Aosta, passando per i 40 euro della Basilicata. Ma ci sono regioni virtuose come l'Emilia-Romagna che costa solo 8 euro, quindi Lombardia e Emilia-Romagna hanno un andamento analogo, il Veneto 12 euro, anche quello diciamo accettabile, la Toscana 8,60 euro per cittadino, le Marche 11 euro, la Campania 15 euro per pro capite, ripeto, poi si arriva invece ai 50 euro della Sardegna, che già diventano difficilmente giustificabili, e per arrivare anche alla Sicilia 35 euro come il Molise, 38 euro della Calabria, 40 euro della Basilicata, 124 euro per la Val d'Aosta. I consiglieri regionali quanto costano ai cittadini? Beh, si passa, o meglio, quanto è il loro stipendio in base ai giorni lavorati? Si va dallo stipendio più alto, che è quello in Lombardia, 12.660 euro, allo stipendio più basso, che è in Emilia-Romagna, 5.600 euro. Calabria 9.000 euro, Campania 9.000 euro di stipendio, Piemonte, Molise e Puglia e Sardegna 10.000 euro il guadagno, così come in Veneto 10.000 euro. La cosa interessante è vedere anche quanto lavorano. Pensate che i consiglieri calabresi che guadagnano 9.000 euro, che è la parte alta della media, hanno lavorato, i giorni di lavoro nel Consiglio 2011 sono stati in media 14. Altre regioni sono ben più virtuose, la Sicilia 82, ma citerei anche la Sardegna 72, il Lazio 52, la Lombardia anch'essa più virtuosa con 30. Comunque partirei con un primo applauso sia al numero di giorni di lavoro dei consiglieri regionali della Calabria, pagati 9.025 euro netti al mese, ma anche un applauso ai consiglieri, alla giunta regionale del Veneto, Zaia, 307 auto blu avete, più 5 per il consiglio regionale. Pensate che l'Umbria ne ha 75, ma soprattutto ci sono regioni decisamente più virtuose, come anche il Lazio, tanto criticato in questo periodo, ne ha 76, la Lombardia ne ha 96, non si capisce perché ce ne siano 307 nella Giunta regionale del Veneto. E quindi alla Giunta regionale del Veneto e ai consiglieri, agli stacanovisti della Calabria, un doppio applauso. E adesso veniamo alle notizie che riguardano di nuovo la Sicilia. A me non interessa, non piace la battuta, anche la Sicilia avrà il suo Trota, il figlio di Bossi. Ma insomma, Raffaele Lombardo è appena uscito di scena come governatore, ma è già entrato in scena il figlio, Toti, studente universitario di 23 anni, scende in campo alle prossime elezioni regionali con la lista del Movimento per l'Autonomia che sostiene Gianfranco Micichè. Lo slogan scelto dal giovane Lombardo è «Liberi di crederci». Increduli di crederci, liberi di essere increduli, direi io. Qualche mese fa, quando Lombardo fu interrogato, gli fu chiesto: ma è vero che candiderà suo figlio? È una sciocchezza, non è nei miei progetti. Beh, Lombardo non è da solo però, perché il governatore siciliano fece candidare il fratello Angelo Lombardo contemporaneamente sia alla Camera dei Deputati che alla Regione siciliana, e venne eletto in due posti, e optando poi per la Camera dei Deputati. Ripeto, è una pratica diffusa, niente di male a candidare il figlio. Mi chiedo, a 23 anni, quale esperienza avanti. Sono curioso, il figlio di Lombardo, se non essere il figlio di Lombardo. Friuli Venezia Giulia, a Tolmezzo ha inaugurato un tribunale che ha un nuovo record nel Guinness dei primati. È il tribunale chiuso più velocemente nella storia del mondo, nel senso che martedì è stato inaugurato il Palazzo di Giustizia nuovo di zecca, costato 4 milioni di euro, a Tolmezzo, provincia di Udine, sede che risulta tra i 31 tribunali che andranno chiusi. È stato chiuso praticamente già, tutti accorpati al tribunale di Udine, distante 50 chilometri. Tra l'altro, in quel caso, chi abita a Sauris, famosa per il prosciutto, dovrà fare 90 chilometri per andare a Udine contro i 35 per andare a Tolmezzo. Per carità, a noi andava bene anche la chiusura dei tribunali, è un po' uno spreco, no? 4 milioni per finire una cosa che devi già chiudere, ma... chi mi scrive se avrò paura che dovrò girare con la scorta? No, ma perché la scorta? Ma stiamo scherzando. Con la scorta, se va avanti così, gireranno alcuni consiglieri regionali. Perché devo girare con la scorta? Con la scorta io. E allora andiamo alla Regione Lazio, che ha formalizzato i primi tagli alle spese, una serie di tagli che diminuiscono praticamente. Andiamo a vedere, si passa da 4.190 euro per ogni elettore eletto a 2.095 le somme destinate ai consiglieri. E poi ancora l'azzeramento dei contributi destinati all'attività dei gruppi consigliari, la sospensione dei contributi utilizzati per il funzionamento degli stessi gruppi, l'azzeramento degli investimenti in conto capitale, la revoca definitiva dell'assegnazione delle auto blu, e poi il capogruppo del PD, Esterino Montino, ha toccato il governatore Polverini, ha detto: non ha le carte in regola, bisogna fare una manovra da 98 milioni di euro. Va bene Esterino Montino, capogruppo del PD. Io aspetto ancora di capire perché lei spese però 740.000 euro in manifesti, 100.000 euro in convegni e cene, 4.500 euro per un'enoteca, perché a Natale abbiamo fatto regali ai bambini senza reddito, un atto di solidarietà, regalare il vino ai bambini senza reddito, ai genitori forse, no? Così bevono e ci pensano meno. Esterno Montino però adesso cavalca, capito, il taglio dei conti, il taglio delle spese. Ascoltiamo al microfono la nostra Anna Marino. Noi venerdì vogliamo discutere non solo dei provvedimenti proposti dalla Polverini, che vanno bene, quindi non abbiamo nulla da dire, però sono completamente insignificanti sotto l'aspetto della spesa, perché intanto abbiamo chiarito che non si tratta di 20 milioni ma si tratta solo di 10 milioni, perché una volta tolta la palazzina, di palazzina ce n'è solo una, quindi non è che ogni anno gli togli la palazzina, e quindi di spesa corrente sono circa 10 milioni. Poi la loro proposta non tocca minimamente i costi della giunta, cioè non c'è un taglio per gli assessori esterni, non c'è un taglio per i vitalizi degli assessori che non sono stati eletti consiglieri regionali, che per la prima volta sono stati introdotti dalla Polverini, non c'è un taglio sulle consulenze non solo del Consiglio, che bisogna azzerare, ma bisogna azzerare tutte le consulenze della Giunta, delle aziende e delle aziende ospedaliere. Bravo, bravo Esterino Montino, si parla bene in questo modo, ci spiega però quando vuole come ha fatto a spendere 4.500 euro in un'enoteca per darle come regali ai bambini senza reddito, un atto di solidarietà. Ah, perché c'è un'espressione che non posso dire, siamo in fascia protetta, che è di fare qualcosa con qualcosa di qualcun altro. Io ieri ho fatto una proposta demagogica, sicuramente. Prendete Fiorito e tutti gli altri, no? Fiorito, Francesco Battistoni, Veronica Cappellaro, Carlo De Romanis, Esterino Montino, Giancarlo Miele, Andrea Bernaudo, e mandateli a Santa Lucia, l'ospedale in cui non venivano pagati gli infermieri, i medici, con centinaia di bambini, soprattutto con problemi di disabilità motoria, neuromotoria, no? Gli fate fare volontariato invece che restituire i soldi, tanto poi i soldi non te li ridanno, li hanno già spesi, no? Un po' di volontariato, visto che non ci sono i soldi per pagare gli infermieri, li ha trovati con fatica la Polverini. Nel frattempo oggi su Corriere della Sera Francesco Gallone, 17 anni, studente all'Istituto Tecnico Albert Einstein di Milano, scrive una lettera in cui dice: io non avrò più l'insegnante di sostegno che era diventato anche il mio amico. Io non vi posso leggere tutta la lettera, anche perché non so se ce la farei a non commuovermi. Io mi ritroverò di nuovo solo e non ascoltato, perché hanno sostanzialmente tagliato gli insegnanti di sostegno in Lombardia, ma non è solo in Lombardia. Non troverà più il suo educatore Michele, che per tanti mesi l'ha aiutato a vivere con maggiore serenità la sua formazione e crescita. Una lettera bellissima, invito tutti a leggerla, inutile che ve la legga io. Bellissima nella sua asciuttezza, nella sua non piangersi addosso. Lui dice: io sono un disabile, sono abituato alle difficoltà. No, ma perché? Perché levare gli insegnanti di sostegno? Praticamente in alcune scuole milanesi c'è il dimezzamento delle ore di assistenza ai bambini disabili. Le scuole denunciano il 57% delle ore in meno di assistenza. Il Comune di Milano risponde che il taglio sarà solo del 2%. E adesso, per vederci più chiaro, ringrazio da un lato Dino Di Tullio, segretario nazionale del sindacato sociale Sfida, che è quello del sindacato delle famiglie italiane diverse abilità, oltre 10.000 iscritti. Buonasera. Buonasera, e grazie. E grazie anche a Evelina Chiocca, che è responsabile del Comitato Italiano Insegnanti di Sostegno e insegna alla scuola di base, alla vecchia elementare in provincia di Trento. Buonasera anche a lei. Buonasera. Allora, dati alla mano, 197.000 alunni disabili su 8 milioni di studenti e 97.000 posti di sostegno. Allora, il Ministero prevede un aumento di oltre 4.000 alunni disabili e almeno 2.000 posti di sostegno. Un terzo dei docenti ha un contratto a tempo determinato. Voi denunciate sostanzialmente un taglio netto in tutta Italia. Chiedo prima a Di Tullio, che vive a San Giovanni Rotondo e tra l'altro insomma conosce il problema da vicino. Di Tullio? Sì, lo vivo da vicino in quanto genitore di un ragazzo con disabilità, e ogni anno per noi genitori è sempre una preoccupazione continua. Durante e dopo, già da giugno, quando finisce l'anno scolastico, ci preoccupiamo cosa succederà a settembre, ma credo che la stessa cosa non avvenga a livello ministeriale, a livello di Ministero della Pubblica Istruzione, in quanto ancora oggi ci sono denunce da tutte le parti che i nostri ragazzi li sono stati privati dell'insegnante di sostegno. Eppure mi chiedo, se la prescrizione a scuola viene fatta abbondantemente prima della fine dell'anno scolastico, come mai arriviamo a settembre, alla fine di settembre, e ci sono moltissimi ragazzi che non hanno l'insegnante di sostegno, e purtroppo succederanno tanti casi, stanno succedendo tanti casi come quello dichiarato oggi dal Corriere, e questo è brutto, è tremendamente brutto. Privare l'insegnante di sostegno a un ragazzo disabile è come privare a una persona che porta le lenti degli occhiali, cioè automaticamente quel ragazzo non gli verrà dato la possibilità di poter seguire in classe la propria insegnante e di seguire quello che è il programma. No, guardi, il tema mi è chiarissimo. Io chiedo, ma per carità, c'è la crisi, ci sono i tagli da fare, ma proprio sui meno abili, i più deboli, perché poi non sono gli insegnanti di sostegno e basta, ma bisogna fare i tagli? No, chiedo perché quando poi vedo che la Polverini in 448 annuncia 20 milioni di euro di tagli, sono contento, ma dico, perché non li hai fatti prima e perché questi soldi non me li giri subito agli insegnanti di sostegno della Regione Lazio? Chiedo. No, sono completamente d'accordo con te, anche perché poi il problema non è solamente legato al discorso del sostegno, ma vediamo a 360 gradi gli ausili nel mondo del lavoro e in quello che è in tutto il contesto. Non lo so, anche tu pensa che a volte per avere un ausilio, una carrozzina, una famiglia, una persona con disabilità, veramente deve tribulare per nei meandri della burocrazia per cercare di essere, non dico alla pari degli altri ragazzi, ma avvicinare leggermente un pochettino la testa e cercare un pochettino di uscire dal mondo dove ci mettono veramente non in seconda, ma in ultima posizione. Sì, ma poi io dico, un paese che continua a rompere le scatole, che è la settima potenza al mondo, no? Che ha i soldi per fare tante altre robe, che stava progettando il ponte sullo Stretto di Messina e altre opere faraoniche. È possibile che a un certo momento non riesca a trovare i soldi per gli insegnanti di sostegno, ma li trovi per mantenere invariate le spese della politica regionale e comunale? Poi vorrei sentire invece anche il responsabile del Comitato Italiano Insegnanti di Sostegno. C'è qualcuno che mi accusa di falso buonismo, il suo impegno, la sua iniziativa serve solo a mantenere gli insegnanti precari perché tanto i disabili restano disabili. Complimenti, vedo che c'è una cultura di quelle proprio solide su come si possa aiutare un disabile ad acquisire alcune abilità. Complimenti, le auguro che non le capiti mai, glielo auguro veramente. E poi alcuni che dicono: beh, lei è veramente un comunista doc. Vabbè, ragazzi, che devo dire, no? Quando uno mangia pesante nella vita esiste anche l'Alka-Seltzer. La domanda è: certo, un paese in difficoltà deve tagliare, ma è possibile che si tagli sempre su quelli che contano meno e non si taglia mai la politica? Devo dire che qualcuno ha scritto: ma perché non usiamo le auto blu per portare i disabili in giro? Ma perché? Ma se la politica volesse smettere di essere sputtanata ogni giorno, basterebbero anche azioni ad effetto, ma almeno efficaci, no? Andate, mandate i vari consiglieri del Lazio, ma non solo, anche quelli inquisiti, così, andate a lavorare nel volontariato, appunto a Santa Lucia, nelle scuole, vedete che già l'immagine migliora, non ci vuole molto. Dunque, Evelina Chiocca, lei rappresenta il Comitato Italiano Insegnanti di Sostegno, ed è una insegna alle scuole, quelle che si chiamano scuole elementari. Quanto pesanti sono questi tagli? Il problema nasce, ha un'origine, il contenimento della spesa e la riorganizzazione della rete scolastica. Questo ha comportato che nel 2009 è stato emanato un provvedimento con il quale sono stati aumentati il numero degli alunni per classe. In virtù di questo meccanismo sono diminuite le cattedre. Pertanto abbiamo classi sovraffollate. Al tempo stesso è stato abolito il tetto del numero degli alunni con disabilità per classe. Questo significa che oggi legalmente possono stare nella stessa classe anche 4, 5, 6, 7 alunni con disabilità, è legale. Eppure abbiamo una legge, la 517 del 77, che ha abolito le classi differenziali. Siamo quindi in una situazione un po' così, un po' sospesa. Di sicuro molto preoccupante, perché l'orientamento sembra avere un'inversione di tendenza rispetto al processo di integrazione che è stato avviato negli anni 70 e che ha dato vita alla chiusura delle classi differenziali e delle scuole speciali. Sembra un ritorno al passato, ma anche nelle pratiche scolastiche. Noi respiriamo delle attività, dei momenti in cui vediamo delle classi differenziali di fatto, cioè dove alunni con disabilità vengono messi a lavorare insieme in parte dando una responsabilità che è effettiva e oggettiva alla riduzione del personale scolastico dovuto ad un innalzamento del numero degli anni per classe, dall'altro anche perché c'è un discorso a livello di formazione che non va comunque trascurato perché è fondamentale. Altro elemento sostanziale, io ho letto la lettera di questo ragazzo che lamenta i tagli rispetto alla mancata presenza quest'anno dell'educatore, che è una figura diversa, che viene assegnata diversa dall'insegnante di sostegno, che però ha un suo compito preciso che riguarda l'autonomia e la comunicazione personale. Questa figura viene assegnata ad alcuni casi, non a tutti gli alunni, perché appunto deve rispondere a determinati bisogni che sono quelli stabiliti dalla norma. Ora, in un contesto così non va trascurato un aspetto fondamentale, che è il ruolo degli insegnanti, tutti gli insegnanti che vengono assegnati alla classe dove è iscritto l'alunno con disabilità, perché tutti sono responsabili del percorso formativo dell'alunno con disabilità. L'insegnante di sostegno è una risorsa che viene assegnata alla classe per favorire il processo di integrazione. Però se in una classe ho 30 studenti, diventa ben difficile effettuare un intervento che risponda ai bisogni formativi di tutti gli alunni. Quindi io quando leggo che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, e siamo all'articolo 2 della Costituzione, e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica, siamo sempre all'articolo 3 della Costituzione. Beh, quando leggo questo non posso non pensare che un paese che ha fatto una scelta di rispetto della persona in quanto tale, poi nei fatti tradica questa scelta, mettendo le persone in condizione di non poter... È chiarissimo il suo punto. Io volevo chiedere un'ultima cosa a Dino Di Tullio. Perché le scuole milanesi denunciano un taglio del 57% delle ore di assistenza da parte degli insegnanti. Il comune dice... il taglio sarà solo del 2%. Secondo me anche il 2% non va bene. Taglia un'altra cosa a Pisapia. Taglia qualche macchina in più. Taglia qualche convegno. Taglia qualche mostra. Taglia quello che vuoi. E qui mi fermo. Ma il 2% non si fa. In ogni caso non si fa. È l'ultimo taglio che devi fare. Non voglio parlare del resto dei comuni e delle regioni italiane. Ma dico, Di Tullio, a marzo ci sono le elezioni. Siccome io ho la sensazione che i politici capiscono solo un certo linguaggio, iniziate a fare delle manifestazioni di protesta, portate i ragazzi davanti al Parlamento, davanti al Comune, davanti alle regioni con i fotografi, i giornalisti, cioè creiamo un bello sputtanamento così poi vediamo se qualcosa non si muove, perché mi sembra che altrimenti qui tanto no... quant'è? Un anno che abbiamo sta rubrica, ma cos'è questa crisi? Un anno che le cose peggiorano, scopriamo poi adesso l'allegra gestione dei consiglieri del Lazio e delle loro spese, per quell'altro che dice io ho bisogno di due auto blu, quell'altro che deve andare in vacanza e spendere 30.000 euro perché era stressato. Ma io te lo do io lo stress se vieni qua e ci incontriamo a cena. Allora, Di Tullio. Allora, io Sebastiano veramente ti volevo ringraziare di cuore, grazie per aver parlato veramente con tutto il cuore da papà prima ancora che da segretario nazionale, di aver parlato di disabilità nel tuo programma. Forse la vera svolta dovrebbe essere quella di parlare di più delle problematiche della disabilità, e poi se permetti vorrei veramente fare arrivare alle famiglie, alle persone con disabilità, ai genitori, non dobbiamo nasconderci, dobbiamo cercare di fare squadra, perché effettivamente loro approfittano del nostro silenzio, approfittano del fatto che noi siamo super oberati perché dobbiamo dare assistenza ai nostri cari, non abbiamo il tempo per stare dietro a tante cose. Ma dobbiamo organizzarci, perché è vero, loro giocano, ci fanno sempre dei brutti scherzi, è facile risparmiare sui più deboli ed è a tutti i livelli, a livello comunale, provinciale, regionale, a livello governativo, tagliano su tutto, sui trasporti, sulla riabilitazione, su tutto. Ora è arrivato il momento di dire basta. In qualsiasi epoca storica, nel momento in cui c'è una crisi, vanno aiutati i più deboli. Qui si gioca esattamente al contrario, a penalizzare i più deboli. Io dico, grazie a voi, anzi per il coraggio che dimostrate ogni giorno come genitori e come associazione. Ma dico, insomma, andiamo sulle cose concrete, tanto qua in questo paese si capiscono solo le minacce. Allora, portate i ragazzi, le famiglie e anche gli insegnanti davanti ai consigli regionali, mentre escono, quando prendono l'auto blu, caricategli la carrozzina nell'auto blu, mettetegli la carrozzina davanti all'auto blu, non me ne frega nulla. Non è possibile andare avanti così. Zaia, ci conosciamo da tempo, 307 auto blu nella giunta regionale del Veneto non sono tollerabili, più altre 5, tagliate queste, datele come auto per i ragazzi disabili, vediamo se avete il coraggio di fare una cosa che abbia un senso umano. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche, sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere. Mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Sono un eroe. Allora concludo con Leo da Cremona che ci scrive al 349-238-6666. Mio figlio, 28 anni, 85% di invalidità. Ora, per miracolo, nel senso che è uscito dalle liste, è guarito, non ha un lavoro, non percepisce più i 270 euro. E senza noi genitori, cosa farebbe? Io un'idea l'ho buttata lì, poi ognuno veda cosa fare. Io tanto noi facciamo il nostro lavoro, però non mi sembra che se ne freghino allegramente. Se non interviene la magistratura, Polverini, bravissima, però i 20 milioni dovevi tagliarli prima dell'inchiesta della magistratura, troppo comodo adesso, intanto tagliateli, per carità, ma mai che si tagliano prima. Attenzione a chi dice lei vuole aumentare il debito pubblico, perché secondo voi il debito pubblico in questo paese l'abbiamo fatto in questi anni con le spese per i disabili, no, chiedo, cioè, o mangiandoci i soldi delle opere pubbliche, delle consulenze, i costi lievitati per ogni ministero, le regioni che non rispettano il patto di stabilità e via, no, chiedo perché insomma la borsa. Male oggi Milano, peggio di altre borse europee, perde il 2,39%, Parigi meno 1,20%, Francoforte meno 0,70%, Londra meno 0,40%, euro a quota 1,30,52. A chi mi dice lei è come Fra Dolcino, la ringrazio per la citazione intellettuale, mi fa un complimento, guarda, mi fa veramente un complimento. Se lei ha letto bene cos'era Fra Dolcino, quando operava, in che periodo operava, certo il metodo era un po' forte, ecco, quello possiamo dirlo. Io sono più democratico, non sono per i metodi di Fra Dolcino, ma l'idea non era completamente sbagliata. Grazie per il complimento all'ascoltatore, non so se volesse farmi un complimento, ma lo prendo come tale. Paolo Paronetto, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Campari più 1,60, Ferragamo più 1,20, Luxottica più 0,30, Atlantia più 0,20, invece pesanti oggi tutte le banche, Intesa San Paolo meno 5,90, Unicredito meno 4,5, Generali meno 4,12, Popolare Emilia Romagna meno 3,30, Popolare Milano meno 3,11 come il Banco Popolare, e poi c'è anche Fiat, ma di cui parleremo dopo, meno 4,20%. Come mai male le banche nonostante l'asta dei bot spagnoli sia andata più che bene? Beh, diciamo che sulle banche la storia è la stessa di ieri. Le banche vivono da una settimana molto positiva grazie all'ottimismo innescato dall'intervento delle banche centrali, della BCE e della Fed a sostegno dell'economia, e soprattutto a Piazza Affari oggi, da ieri sono scattati i realizzi perché è finito il divieto di vendita allo scoperto, quindi diciamo che sono ricominciate le operazioni di vendita dei titoli allo scoperto, anche appunto in virtù della volontà di molti investitori di passare all'incasso dopo i rialzi della settimana scorsa, e quindi la seconda seduta consecutiva di consistenti ribassi per le banche, soprattutto le big. Le peggiori sono state Intesa San Paolo e Unicredit. E poi abbiamo ancora un minuto, prima, poi ti faccio parlare dopo il GR, ci mancherebbe. Fiat, le immatricolazioni in Europa saranno tema. Dicevamo bene il lusso oggi, Ferragamo più 1,20, Campari non è il lusso, più 1,60, Luxottica più 0,30. Sì, bene il lusso, che era rimasto un po' nelle retrovie nella settimana scorsa, proprio quando gli acquisti avevano premiato soprattutto i settori più ciclici, ebbene anche i titoli legati al dollaro, quindi delle società che sono molto esposte sul mercato statunitense e quindi fatturano gran parte delle loro vendite in dollari, perché oggi il dollaro appunto si è rafforzato nei confronti dell'euro, dopo che l'euro aveva guadagnato molto la settimana scorsa. La chiusura è stata 1,3048, mentre ieri era sopra 1,31 dollari. Molti di voi ci chiedono sempre, o spesso, al 349-238-6666 i temi della puntata prima che inizi. Li trovate su Facebook, per esempio, oltre che sul sito di Radio 24, nella pagina dedicata a Focus Economia. Chiusa la nota, Paolo Paronetto, mancava ST Microelectronics e Telecom Italia Media. Sì, per quanto riguarda ST Microelectronics, il titolo ha perso il 3,8%, anche qui si tratta di prese di beneficio dopo che la settimana scorsa il titolo era andato bene grazie anche all'euforia dei tecnologici legata alla presentazione del nuovo iPhone. Inoltre adesso gli operatori iniziano invece a guardare la presentazione dei conti del terzo trimestre e le eventuali indicazioni sul quarto trimestre, e sono alcuni iniziano a temere cattive notizie su questo fronte. Per quanto riguarda invece i titoli al di fuori del paniere principale, sono andati molto bene appunto RCS e Telecom Italia Media, hanno guadagnato entrambe più del 20%. Per quanto riguarda Telecom Italia Media, ovviamente si tratta dell'interesse per la procedura di vendita, nuove voci parlano di un interesse della News Corporation di Murdoch, mentre invece proprio a mezz'ora della chiusura di borsa si è chiamata fuori Mediaset, che ha detto di aver esaminato il dossier prima dell'estate, ma già appunto da prima della pausa estiva, quindi da fine luglio, di aver deciso di non proseguire nell'operazione, e quindi ha comunicato ufficialmente di non essere interessata alla vendita. Migliori e peggiori in assoluto oggi in borsa. Per quello che riguarda i migliori, adesso ne parliamo, c'è il gruppo Rizzoli Corriere della Sera, più 22,70, molto bene anche Sopaf, più 23,70. Novità su Sopaf? Oggi c'è stata l'assemblea, al momento non si va alla liquidazione, si cerca di trovare un cavaliere bianco presentando la domanda di concordato. Tiscali più 10,70, Saras più 6,60, e invece chi perde di più, Edes meno 6,70, Cairo Communication meno 6%, Intesa San Paolo meno 5,88%, e poi Mondadori meno 5%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore. Noi restiamo in tema di borsa / economia, innanzitutto parlando di quello che sta capitando dentro la società che gestisce il primo quotidiano in Italia, quindi la Rizzoli, Corriere della Sera. Allora, il titolo ha guadagnato dal 24 agosto il 185%. Il sospetto è che Diego Della Valle, dopo essere uscito dal patto di sindacato, quel patto che ha un blocco di minoranza, una minoranza di blocco dentro il gruppo Rizzoli Corriere della Sera e vincola i vari soci, lui ne è uscito per avere le mani libere, diciamo. E infatti oggi si è saputo che ha portato la sua quota tra l'8 e il 9% del capitale, era il 5,5%. E quindi sicuramente anche lui è uno di quelli che hanno rastrellato oltre il 3%. A questo punto il gruppo editoriale che pubblica Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Oggi, Amica e Il Mundo in Spagna, possiede le case editrici Bompiani, Rizzoli e Fabbri, ha anche delle radio, Radio 105, Radio Monte Carlo, Virgin, 2 miliardi di euro di affari. Dicevo, il gruppo Rizzoli Corriere della Sera ha i seguenti azionisti: Mediobanca 14%, Giuseppe Rotelli, il re delle cliniche, 13%, Fiat il 10,5%, Della Valle tra l'8 e il 9%, Italcementi, ossia Pesenti, il 7,6%, e poi Intesa San Paolo il 5,5%, Fondiaria il 5,5%, Pirelli il 5%, Generali il 4%, Edizione Holding ossia, il 5%, Banco Popolare il 3,6%. Antonello Olivieri, buonasera, il Sole 24 Ore. Buonasera, ciao. C'è chi ha voluto vedere nello sconto tra Della Valle e Marchionne, la Fiat appunto ha il 10%, il 10,5% del Corriere della Sera, un legame con il rastrellamento di azioni che Della Valle ha fatto. A questo punto sappiamo che, insomma, lui era uno dei principali attori. Si è capito qual è l'obiettivo di Della Valle? Arrivare a fare che cosa con il Corriere? Visto che, insomma, mi sembra che si stia muovendo molto per essere buoni. Sicuramente aveva due obiettivi, cioè uno quello di abbassare il prezzo di carico, perché mi ricordo gli ultimi acquisti li aveva effettuati quando era dentro il patto anni fa a prezzi superiori ai 4 euro, quindi comunque sia ha abbassato di parecchio il prezzo di carico. E l'altro è evidentemente quello di contare per il peso che ha, indipendentemente dal fatto che non sia più dentro nel patto di sindacato, perché di fatto Della Valle con i nuovi acquisti è diventato il quarto azionista, il quarto singolo azionista del gruppo. E tra l'altro c'è una situazione abbastanza particolare dove tutti quanti hanno azioni, c'è un controllo elevatissimo da parte del patto, che anche dopo l'uscita di Della Valle ha comunque il 58% del capitale, quindi la maggioranza assoluta, ma fuori patto ci sono degli azionisti molto pesanti. Rotelli ha 16,5 dei diritti di voto, poi c'è Della Valle che è sotto il 10, ma comunque una quota importante, c'è Benetton che ha il 5%, quindi sul mercato è rimasto veramente poco. Infatti ho visto che la borsa adesso comincia forse a essere anche un po' preoccupata del fatto che le negoziazioni si svolgano in modo regolare, perché ha messo un vincolo alla negoziazione, ha detto che da domani non accetterà degli ordini senza limite di prezzo. Sì. Il problema è che con pochissimo flottante è rimasto sul mercato, basta che qualcuno acquisti, il prezzo schizza. Allora, in modo anomalo. Spieghiamolo, il flottante è l'ammontare di azioni di un titolo che possono essere comprate e vendute in borsa. E tu, quello che tu stai dicendo, siccome qui hanno rastrellato i vari azionisti le azioni, ne sono rimaste pochissime da comprare e vendere. Quando ne hai poche, come di qualunque bene, è chiaro che basta comprarne, faccio per dire, 10 per muovere moltissimo il titolo. Se tu invece avessi un flottante molto alto, dovresti fare molti acquisti. In questo modo, con pochissime azioni rispetto al capitale complessivo, ancora comprabili e vendibili. Chiaramente si muove il titolo con estrema facilità, ed ecco perché la borsa italiana ha detto no, adesso dovrete mettere un limite di prezzo, sennò il titolo oggi ha fatto un altro botto, 22,70% di rialzo. Certo. Ma l'obiettivo di Della Valle, cioè, secondo te dietro l'attacco a Marchionne in Della Valle c'è l'obiettivo Corriere della Sera, eh? O sono due cose? Francamente lui alla 7 ieri ha detto che non c'è relazione, ma francamente mi sembra che è un'opinione espressa da di fuori sulla politica della FIE, però è un dato di fatto che c'è stato un attrito all'interno del patto che poi ha provocato la sua uscita in polemica, proprio per il fatto che per la prima volta a maggioranza e non all'unanimità, diciamo, il patto ha spinto in una direzione, e in questa direzione si sono trovati la Fiat, Mediobanca e Intesa, e la posizione portata avanti da Della Valle sulla governance ai tempi, questa primavera è stata di minoranza. Ultima domanda, dove potrebbe arrivare? Nel senso che tu hai chiarito bene che ci sono poche azioni adesso comprabili, e quindi la quota non si può, a meno che qualcuno dei grandi soci non venda un pacchetto vero e proprio, ma non si riesce a salire ulteriormente. Che se ne fa Della Valle alla fine del 9%, anche arrivasse al 10%? Infatti penso che sia una posizione di lungo periodo, c'è un patto che l'anno prossimo scade, c'è sicuramente una quota che sarà in vendita, che è quella che è stata di Fonsai, che è stata rilevata dall'Unipol, quello è un altro pacchetto intorno al 5%, sì, 5,4%, dovrà trovare un collocamento, un altro azionista, perché l'Unipol non ha intenzione di tenerla, per quello che si sa, ma finché c'è il patto rimarrà vincolata al patto, quindi è un discorso. Tu dici, e intanto si è posizionato sul 9-10%, forse arriverà, e poi vedremo chi venderà, c'è la quota Unipol, ma non solo, è il patto di sindacato, cioè quello che vincola i soci, un certo numero di soci, a stare assieme, a non vendere, ad avere diritti di prelazione, scadrà l'anno prossimo e potrebbe esserci un liberi tutti. Grazie Antonio Olivieri, e noi restiamo a cavallo tra finanza e Fiat, perché l'attacco di Della Valle ha fatto scalpore, ma a mio avviso devono fare più scalpore oggi i dati diffusi sulle immatricolazioni europee, che vedono la Fiat perdere più del doppio rispetto alla media del mercato europeo, scivolare sotto addirittura la BMW, in un mercato difficile per tutti, perché obiettivamente ha fatto meno 8,5% ad agosto il dato sulle immatricolazioni, meno 4,5 in Francia, meno 4,5 in Germania, meno 11 in Francia, meno 20 in Italia. Però la Fiat ha fatto meno 17%, il marchio Fiat meno 15%, Lancia Chrysler meno 25%, Alfa Romeo meno 31%. Faccio notare che un concorrente come Volkswagen ha fatto più 1,6%, Renault ha fatto comunque meno 13%, Peugeot meno 12%, Toyota meno 5,5%, male invece Opel meno 20% e Ford meno 28%. E una nota, visto che abbiamo parlato del taglio agli insegnanti di sostegno dopo la lettera, a mio avviso bellissima, ripeto per l'ultima volta, nella sua sobrietà, asciuttezza, di quel ragazzo disabile oggi su Corriere della Sera. È vero, non c'è solo il problema dei ragazzi, degli studenti, c'è anche il problema di chi ha genitori a carico con delle disabilità più o meno permanenti, ci mancherebbe, ma stiamo ricevendo messaggi di ogni genere, insegnanti che ci scrivono, insomma, ho 28 alunni in classe di cui un non vedente, 3 dislessici, un cinese da alfabetizzare, mi hanno tagliato le ore di sostegno di educatore, ed è a Roma. Cioè, questo è il problema, capisci? Non si riesce a tagliare le spese della politica, delle regioni, degli sprechi, delle consulenze, dei convegni, della formazione, dei 750.000 euro per il consiglio del PDL del Lazio, per fare che cosa non si capisce, poi però è facilissimo tagliare tutto ciò che aiuterebbe, sarebbe anticiclico nei confronti della crisi. Ma non posso continuare a farmi sangue marcio, preferisco parlare delle non immatricolazioni Fiat in Europa. Nel frattempo però è arrivata la notizia che il Presidente del Consiglio Mario Monti sentirà Sergio Marchionne il 22 di questo mese. L'amministratore delegato della Fiat illustrerà le prospettive strategiche in Italia. Bene, è arrivata finalmente la convocazione da molti chiesti, mi sembra un atto dovuto da parte del governo. Ma siamo a martedì, va bene dai, meglio tardi che mai. Leggevo i dati sulle immatricolazioni in calo, perde tutta l'Europa, la Fiat perde di più. Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, ti faccio una domanda, vediamo se la pongo bene. Fiat è scesa anche dopo la BMW in Europa come immatricolazione, all'ottavo posto. Perde più di Volkswagen, di Peugeot, di Renault, meno di Opel e Ford, però... Non dovrebbe essere normale che Fiat, da sempre forte nelle auto utilitarie, in un periodo di crisi, stesse prima della BMW? Io capisco che ci sono sacche di ricchezza, quello che vuoi, ma cioè non è strano che perda continuamente quote? Non c'è un problema, al di là di Marchionne, che può fare quello che vuole, adesso ha appena avviato i lavori per la fabbrica in Brasile, è una società privata... Va bene, ci faccia sapere quanto vuole restare in Italia, con che investimenti, una volta per tutte, senza piani Fabbrica Italia che vengono smontati un anno dopo. Ma non c'è un problema di modelli, o è sempre un problema di relazioni industriali, come Marchionne ci racconta da 3 anni, cioè di relazioni con i sindacati e contratti di lavoro? Ma c'è un problema di modelli, la domanda che hai posto è posta benissimo. C'è un problema di modelli, e lo dice la stessa Fiat, che non ha rinnovato la gamma perché non ritiene, con questo mercato che c'è in Italia e in Europa, di doverlo fare. Quindi questa è una prima ragione. Una seconda ragione... Sì, però è una profezia che si autoavvera, perché se tu dici che il mercato in Europa fa schifo, quindi non faccio i modelli, per te farà sempre più schifo, o sbaglio? Hai ragione. Se tu poi, d'altra parte, volevi non farti sangue marcio cambiando argomento e parlando dell'auto, penso che tu continui a farti sangue marcio. No, vabbè, ma qua ormai il nuovo sponsor del Defocus, secondo me, è il Malox, un po', ma andiamo avanti. Poi c'è un'altra ragione, che cala fortemente il mercato italiano. La Fiat ha una quota abbastanza importante sul mercato italiano, intorno al 30%, quindi risente maggiormente di questo calo del mercato italiano. Poi c'è anche un problema di politica industriale, però le ragioni sono essenzialmente tre: un problema di politica industriale, un problema di politica dei modelli, un problema del mercato italiano che sta andando malissimo. E a questo proposito bisognerebbe anche chiedersi che cosa intende fare il governo per porre rimedio a questa situazione. Cioè, di nuovo gli incentivi? Ma non lo so se di nuovo gli incentivi. D'altra parte, possiamo però andare avanti a botte di incentivi? No, ma il governo gli incentivi li ha varati, perché con la legge del 7 agosto ha varato degli incentivi per le auto ecologiche, però ha fatto un provvedimento assolutamente sbagliato dal punto di vista tecnico, il che per un governo di tecnici mi sembra il massimo, in quanto dà la rottamazione anche alle auto aziendali, ma la dà chiedendo di riconsegnare, di rottamare un'auto vecchia di 10 anni. Quasi nessuna azienda ha nel parco auto di questo tipo, quindi è un provvedimento che non servirà a nulla, dovrà essere rifatto se si vuole seguire la strada degli incentivi. Però c'è anche un'altra questione di fondo che non riguarda solo l'automobile, ma che riguarda tutta l'economia. Sarebbe ora che si cominciasse a vedere qualche provvedimento di carattere congiunturale, cioè di efficacia immediata, anche per la ripresa dell'economia, non soltanto per quando c'è da risanare i bilanci dello Stato e arriva la stangata con efficacia fulminante. Però restiamo adesso, questa fa parte, figurati, della manovra del governo, aspettiamo anche noi i provvedimenti per la crescita oltre che per la decrescita e tagli. Però secondo te perché la Fiat è arrivata così tardi? Allora, non ha le auto ibride, scrivono gli ascoltatori che stanno comprando Toyota o Lexus ibride e quant'altro. Ha due modelli su cui punta, la 500 e la Panda. Mi sembra che manchi la fascia di quella che una volta era la Punto, cioè la fascia che va a far concorrenza alla Focus, alla Golf, no? Cioè, perché così in ritardo secondo te? Perché ormai è tutta americana e brasiliana? Ma non lo so se è tutta americana o brasiliana, di fatto è così. Fra l'altro ha puntato anche sul metano, non all'auto elettrica, perché ha fatto la scelta del metano. Fra l'altro è una scelta che sta pagando, perché si vende poco in Italia, ma le auto a metano ed anche a quelle GPL sono in forte crescita. Poi il rinnovo dei modelli non c'è stato, e c'è una grossa carenza nelle vetture di gamma alta, che un tempo avevano un ruolo importante anche per Fiat. E oggi invece questo mercato è dominato dai marchi premium, Audi, Mercedes e BMW. Sì, alcuni scrivono incentivi solo a chi produce in Italia, perché c'è anche quel problema. Chiudendo e restando nello spirito del Malox tempora current, potremmo dire, tu hai scoperto, il Sole 24 Ore l'ha pubblicato ieri, che noi abbiamo comprato molto meno benzina e gasolio, ma abbiamo pagato molto di più. Lo Stato ci ha incassato 3 miliardi e mezzo in più di tasse in 8 mesi, così? È proprio così. I consumi di benzina e gasolio sono calati del 9,3%, che è un calo enorme se considera che è un consumo assolutamente di massa quello della benzina, ed è un calo che non si è mai verificato dal dopoguerra ad ora in questa entità. Ma nonostante questo il fisco ha incassato il 17,4% in più, e questo perché le imposte sono aumentate del 22,45% per la benzina e del 33,04% per il gasolio. E fra l'altro la crescita degli introiti del fisco va anche lievemente a danno della componente industriale, cioè di quanto va a petrolieri e distributori, perché la quota che va appunto a questi soggetti cala dell'1,2%. Quindi tutta la colpa dell'aumento delle norme del costo della benzina è riferibile alle tasse. 3 miliardi e mezzo, almeno un grazie potevano darcelo dal governo. Direi di sì. Devo dire che nel ringraziare Gianprimo Quagliano e ringraziare voi c'è chi dice: ma non avete parlato dei vitalizi dei consiglieri regionali, dei parlamentari? Guardate che non c'è solo la Minetti, sì, anche sui vitalizi, no? Un bel gesto. Ma volete arrivare io dico, ma la classe politica vuole arrivare alle elezioni in questo modo? Auguri, auguri. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata.